basta. È da un po' che non parliamo. Scendi dalla croce, dai. Vestiti che usciamo. Guarda la gente, non ha più sogni, non ha speranze, solo bisogni. Girano in branco per far paura, ma il cuore è debole, senza armatura. Moderno, antico, d'argento, d'oro. O sei un amico, o sei uno di loro. Vivono chiusi come animali. Anche i tuoi angeli hanno perso le ali. Guarda sui muri, disegno sceni, fatti dai geni del caos. Le luci a neon, come rugiada, confondono la strada del caos. Nel mio disordine disperso dentro un caos totale, disconosco il tempo di pensiero sul dono mentale. L'essere sostanzialmente esiste fino a quando giace inerte sopra il ciglio dell'oblio. Trascendente, effimero, va via, si leva libero, seguendo traiettorie note solamente a Dio. Nel mio disordine disperso dentro un caos totale, disconosco il tempo, ogni pensiero sul dono mentale. L'essere sostanzialmente esiste fino a quando giace inerte sopra il ciglio dell'oblio. Trascendente, effimero, va via, si leva libero, seguendo traiettorie note solamente a Dio. Nel mio disordine disperso dentro un caos totale, disconosco il tempo, ogni pensiero sul dono mentale. L'essere sostanzialmente esiste fino a quando giace inerte sopra il ciglio dell'oblio. Trascendente, effimero, va che si leva libero, seguendo traiettorie note solamente a Dio. Nel mio disordine disperso dentro un caos totale, disconosco il tempo, ogni pensiero sul dono mentale. L'essere sostanzialmente esistente.